Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Buona giornata, un nuovo appuntamento dei martedì del lavoro di Salva Danaio dedicato ai contratti flessibili, tema già toccato a fine gennaio ma sul quale torniamo per esplicita richiesta di alcuni ascoltatori che abbiamo deciso di ascoltare appunto ed accontentare. La legge 92 del 2012, la riforma Fornero sul mercato del lavoro, ha rivisitato il ricorso al lavoro accessorio retribuito tramite i voucher o buoni lavoro e anche il lavoro a chiamata. Il lavoro occasionale di tipo accessorio è stato introdotto con l'obiettivo di regolamentare i lavoretti più occasionali e saltuari. Lo strumento che permette questa procedura è proprio il voucher, una sorta di assegno con il quale vengono pagate queste prestazioni. Si identificano invece con il lavoro a chiamata o intermittente quei contratti che regolano periodi di lavoro predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Allora, facciamo il punto sul funzionamento di questi strumenti e sulle novità della riforma Fornero rispondendo alle domande degli ascoltatori. 800 24 00 24 per i vostri quesiti, se volete presentarceli in diretta, oppure ci potete scrivere al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Su Facebook il nostro profilo è su salvadanaio-radio24, siamo anche su Twitter @salvadanaio24. Con noi questa mattina ci saranno, come sempre, Alessandro Rotaporta, consulente del lavoro, esperto sulle tematiche del lavoro per il Sole 24 Ore, l'avvocato Vincenzo Ferrante, partner dello studio legale Daverio e Florio e professore straordinario di diritto del lavoro presso la facoltà piacentina di giurisprudenza dell'Università Cattolica. Prima di tutto questo, però, oggi necessariamente la borsa. Rimane una giornata nervosa, ieri era stata molto più nervosa, soprattutto nel pomeriggio, dopo le novità che arrivavano da Cipro, ma più che altro sulle novità che arrivavano da Bruxelles, con il numero uno appunto dell'Eurogruppo che aveva detto, come ricorderete, il modello che si sta studiando per Cipro potrebbe essere applicato anche ad altri paesi europei, è un buon schema da applicare anche agli altri paesi europei. Poi però c'è stata una marcia indietro, ma di fatto questa dichiarazione ieri ha avuto un effetto dirompente sull'andamento delle borse nel pomeriggio. Oggi qualcuna recupera, non tutte. Milano per esempio non è tra queste, ieri già protagonista del calo più forte, -2,5%, adesso ancora in ribasso, -0,13%, mentre annaspano un po' Londra, +0,13%, meglio Francoforte, +0,35%, ancora meglio Parigi che segna +0,86%. Andata bene l'asta di bot semestrali questa mattina con tassi in vigoroso ribasso, ma questo non basta a rassicurare gli investitori. Buongiorno Matteo Paganini, Chief Analyst di FXCM Italia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ci dica un po' come mai stamattina c'è ancora questo nervosismo? Le rassicurazioni su Cipro non sono bastate? Comunque abbiamo già capito che verrà fatto questo prelievo sui conti, sui depositi superiori ai 100.000 euro, ma secondo lei il mercato generalmente teme ancora che questo modello cipriota possa essere applicato ad altri paesi, nella fattispecie ad uno molto vicino a noi? Allora, la mia idea è abbastanza chiara. Io credo che la mossa di ieri è stato come un po' tirare il sasso e poi nascondere tirare la mano. Esattamente. I mercati stanno ancora scontando questa debolezza. La chiave di lettura che do va a prendere anche l'asta di bot che c'è stata. Al contrario delle aspettative della maggior parte degli analisti, i tassi sono stati in calo. Siamo arrivati a 0,83 contro un 1,23. Sì, quasi mezzo precedente. Punto di ribasso, incredibile. Esatto, sono stati collocati tra l'altro tutti gli 8,5 miliardi con un bid to cover, quindi una domanda rispetto all'offerta di 1,63-1,64, per cui una forte domanda. Questo secondo me è significativo, significa che gli investitori sono ancora nervosi, sulle borse si stanno cavalcando i ribassi perché probabilmente non è ancora il momento di prendere dei profitti, c'è ancora un po' di strada da poter fare all'ingiù, mentre i titoli di Stato di quei paesi che sono stati, passami il termine, un po' più virtuosi, per esempio l'Italia, che si è mossa con delle misure di austerity con Monti e che ha avuto una stretta creditizia a differenza rispetto a quello che è accaduto su Cipro, che si vedono un po' come porti sicuri, quindi i titoli di Stato a breve termine che vengono rimborsati in questo caso a 6 mesi hanno tanta richiesta e i rendimenti quindi sono in calo, vengono presi un po' come dei rendimenti ancora certi che possono essere erosi da questo mercato molto nervoso, quindi investitori che sono meno rivolti verso il rischio, meno propensi al rischio. Mentre se guardiamo le aste di ieri, per esempio, e anche lo spread stamattina sul decennale, siamo sui 318 punti base, anche questo è un altro indicatore, esatto, che appunto ci dice vi marchiamo stretti italiani, no? Esatto, esatto, però sul breve abbiamo avuto un segnale diciamo positivo che va a scongiurare un attimino questi timori di contagio per quanto riguarda, guardiamo in casa nostra, il nostro paese, perché come dicevo prima ci siamo mossi un attimino in anticipo secondo quelle che sono le linee guida europee, per cui si potranno eventualmente, nel caso di dover ricevere aiuti, valutare strade diverse. Da questo punto di vista la interpreto così io. Benissimo. La reazione dei mercati. Paganini, la ringrazio per averci dato questa interpretazione sull'andamento dei mercati odierno, appunto, e vedremo se nei prossimi giorni ci saranno delle rassicurazioni più ampie che consentano anche a Milano di viaggiare in una direzione più tranquilla. Grazie molto e buona giornata. Grazie a voi, grazie a tutti. Andiamo al tema di oggi subito, il nostro martedì di lavoro, parliamo di voucher e contratti a chiamata. Gentilissima Deborah, dopo aver ascoltato la puntata di Salva Danaio dedicata ai voucher lavoro, mi sono attivato per far venire a casa una persona per fare le pulizie. L'impegno richiesto è di 5 ore alla settimana. Mia sorella ha una piccola impresa di pulizie e le ho consigliato di prendere una persona che collaborasse con lei, pagandola con i voucher. Poi ho ascoltato la puntata sui lavoratori domestici e ho capito che non è possibile usare i voucher in maniera sistematica. Quando l'ho spiegato a mia sorella è rimasta molto male. Con la sua attività ci mangia appena e quando ci sono dei picchi di lavoro non sa come fare. In una delle prossime puntate potrebbe spiegare in che modo potrei pagare una persona in maniera sistematica per 5 ore settimanali per fare le pulizie a casa mia e come può fare mia sorella con la sua attività nei momenti in cui ha più bisogno? Grazie di tutto, Filippo. E noi abbiamo subito accontentato Filippo, anzi abbiamo deciso che d'ora in poi cercheremo di costruire molte puntate sulla scia delle vostre segnalazioni, delle vostre testimonianze e richieste dirette, che potete rivolgerci anche stamattina all'800 24 00 24. Alessandro Rottaporta, ancora buongiorno, perché Filippo non può pagare con il voucher la persona di cui vorrebbe, della cui professionalità appunto vorrebbe avvalersi per farsi aiutare nei lavoratori domestici, anche se in realtà appunto Filippo lo diceva già. Abbiamo già dedicato a questo tema una puntata settimana scorsa, come disciplinare il rapporto di lavoro domestico. Non è proprio possibile pagarlo con il voucher? Allora, intanto buongiorno a tutti. Buongiorno e bentornate. Grazie dell'ospitalità in trasmissione. Allora, venendo al quesito dell'ascoltatore, bisogna fare una breve premessa. Intanto occorre distinguere voucher da rapporto di lavoro domestico. Sono due cose completamente diverse, perché mentre il rapporto di lavoro domestico è appunto un rapporto di lavoro subordinato, quindi con tutte le caratteristiche che lo contraddistinguono, il voucher è invece dedicato a quelle prestazioni che la norma, quindi la riforma del lavoro, dice di essere di natura meramente occasionale, quindi si deve trattare appunto di prestazioni proprio di natura discontinua e occasionale, accessoria, come appunto sono definite. Se per esempio questa persona che, di cui Filippo ha bisogno venisse chiamata 2 volte l'anno per fare le grosse pulizie di cambio stagione, Rottaporta, quello potrebbe essere come dire, un rapporto di lavoro che potrebbe essere retribuito col voucher, visto che l'occasionalità qua è un po' più manifesta? In questo caso sicuramente sì. Aggiungerei ancora una precisazione. Con la legge 92, quindi con la riforma Fornero, di fatto il voucher, mentre prima seguiva un'impostazione che aveva delle casistiche settoriali o delle casistiche legate ai soggetti che potevano essere potenziali percettori dei voucher, adesso l'impostazione è cambiata, nel senso che sono stati introdotti dei limiti reddituali che, ad esempio, nel caso di un committente privato sono 5.000 euro netti erogabili nei confronti del prestatore, quindi il prestatore nell'arco di un anno solare non può tra i diversi committenti, nel caso dei privati, non può superare questo tetto di 5.000 euro come complessivi. Esatto. Percepiti, e il Ministero del Lavoro che interpretazione ha dato? Ha detto questo, questi limiti di compenso rappresentano di fatto i limiti dell'occasionalità, quindi quando il rapporto retribuito con i voucher sta all'interno di questi parametri è di fatto considerato genuino, però dall'altra parte non bisogna dimenticare la considerazione che appunto facevo prima nella distinzione subordinato occasionale, che è possibile anche configurare un rapporto di natura subordinata domestico con orari di carattere esiguo, quindi se nel momento in cui c'è una continuità, anche se è limitata nel, diciamo, nell'arco temporale, ma è continuativa e quindi non è più occasionale, a quel punto, anche se magari come compensi si starebbe all'interno dei parametri individuati dalla norma, però a quel punto lì l'occasionalità viene meno. Ecco, il concetto che può creare la distinzione è un po' quello, cioè certo, se è una cosa sporadica, spot, può andare bene il voucher, se invece è una cosa, anche se limitata, ma è comunque continuativa, quindi è un'esigenza che non è più occasionale, allora lì forse qualche dubbio è meglio farselo venire. Il nostro ascoltatore poneva anche il caso di sua sorella, che ha questa piccola impresa di pulizie, e ci sono delle fasi nel corso dell'anno in cui ci sono dei picchi di lavoro, magari sono molte le aziende che chiamano perché hanno bisogno appunto di questo servizio. Lei dice magari in certi momenti dell'anno ha bisogno di avvalersi di un numero maggiore appunto di persone che lavorano per lei, e in questo caso però non ha ben capito se anche lei può per esempio utilizzare il voucher per retribuire queste persone, se le chiama anche in questo caso due volte l'anno. Sua sorella non è nella stessa condizione di Filippo. Ma il criterio, diciamo, che la valutazione è analoga sia che si tratti di committenti privati sia che si tratti di attività economiche. In questo caso quel limite che prima menzionavo nei 5.000 euro scende a 2.000, quindi il committente imprenditore non può erogare più di 2.000 euro di voucher nei confronti di ciascun prestatore, quindi il limite scende a 2.000. Anche qui però è logico che se l'esigenza è caratterizzata dall'occasionalità, anche la sorella che ha l'impresa di pulizia eventualmente potrebbe servirsi dei voucher. Non so, faccio un esempio classico, ha una commessa straordinaria, temporanea, dove c'è un'esigenza di mandare un lavoratore in modo occasionale, e allora il voucher può anche essere utilizzato in queste casistiche. Certo, oppure utilizzare persone diverse nel corso dell'anno. Oppure utilizzare persone diverse, sì. Ricordiamo che ad esempio i voucher nel 2013 possono essere anche spesi nei confronti dei percettori di ammortizzatori sociali fino a un massimo di 3.000 euro, quindi magari ci può anche capitare il caso di avere un prestatore che rientra in queste tipologie, e quindi si possono anche avere persone diverse. Per esempio che è sotto tutela momentanea dell'ASPI, l'assicurazione dell'ASPI o della cassa integrazione, perché magari è sospeso in cassa integrazione per contrazione dell'attività dell'azienda. Benissimo, quindi insomma speriamo che sua sorella, visto che nella lettera ci aveva scritto che si è addirittura messa a piangere quando ha sentito la nostra puntata della scorsa settimana, scoraggiatissima, speriamo di averla invece rassicurata e tranquillizzata. Prima di andare all'avvocato Ferrante, gli chiedo ancora un minutino di pazienza, vorrei tornare ancora, esaurire il discorso del voucher e del lavoro domestico, perché su questo tema c'è una domanda di un ascoltatore che è Massimiliano da Milano. Buongiorno. Buongiorno, sono Massimiliano. Sì. Volevo solamente dire che io avrei voluto, diciamo così, utilizzare la formula dei voucher un paio d'anni fa, non esisteva ancora o comunque era un progetto, non si capiva bene, però alla fine volevo a tutti i costi mettere in regola la mia collaboratrice domestica, e così ho fatto, e nella sostanza per 5 ore sole alla settimana io l'ho praticamente assunta, ho affidato a un CAF la gestione della busta paga, sì, e diciamo di tutta l'amministrazione della cosa, e ovviamente il costo in più per me è sostanzialmente la spesa per il CAF, per la gestione della questione. Ma non utilizza i voucher, Massimiliano? No, purtroppo certo, ha dovuto fare un contratto di lavoro. Utilizzare i voucher, capisce? E purtroppo non si può per questo tipo di lavoro, se è un rapporto di lavoro continuativo, quindi rotaporta, dobbiamo ancora di nuovo rafforzare questo messaggio. Ma sì, perché altrimenti tutte quelle prestazioni svolte diciamo nell'ambito domestico, allora non esisterebbe più l'assunzione. Certo. Verrebbe snaturato totalmente quello che è la natura del rapporto in quel caso. Mm-hmm. Avvocato Ferrante, tra l'altro io mi sono ripresa anche un articolo del Sole 24 Ore che aveva rappresentato un po' anche il nostro presupposto, la puntata che avevamo fatto a gennaio, un articolo della collega Francesca Barbieri, che peraltro era stata anche nostra ospite in quella puntata, che ci raccontava come non si fermi la corsa dei voucher. Da luglio a gennaio dello scorso anno ne sono stati venduti oltre 12 milioni, più 30% in 6 mesi. Chiaramente una forma di remunerazione legata soprattutto a determinate tipologie di professionalità e lavori stagionali, quelli in agricoltura. Sono soprattutto alcune specifiche ragioni che ne fanno un uso massiccio. Avvocato Ferrante, buongiorno. Buongiorno, non le ho ancora dato l'opportunità di salutare, ma insomma è uno strumento che ha delle altissime potenzialità. Abbiamo visto che ci sono stati dei tassi di crescita molto alti, ma forse potrebbero essere anche molto più alti se effettivamente sia il lavoratore sia un possibile datore di lavoro ne cogliessero appieno appunto le potenzialità. Come dicevo, secondo lei è uno strumento sottovalutato, adeguatamente valutato dal nostro mercato del lavoro, ipervalutato? Qual è la sua sensazione? Ma guardi, la prima cosa da chiarire è che in realtà quando si dice occasionale o accessorio non necessariamente si fa riferimento a casi, come dire, straordinari. Oggi sono molto ordinari, direi. Una volta ogni tanto, ma intendiamoci, 5.000 euro netti, che significano 6.500 euro lordi, sono la retribuzione di tante persone che lavorano ben più di 5 ore come domestici, come personale di servizio alle dipendenze dei privati. Quindi da questo punto di vista la potenzialità dell'istituto è enorme, nel senso che la norma di legge, che era la vecchia legge Biagi del 2003, consente oramai, alla luce delle modifiche della Fornero, di utilizzare il lavoro accessorio praticamente per ogni ipotesi di lavoro e per ogni ipotesi di lavoro subordinato. Quindi qui c'è una, noi abbiamo sempre pensato, no, il lavoro subordinato e poi tipologie diverse, l'occasionale, il co-co-co, eccetera eccetera. Invece qui c'è una sovrapposizione piena. Il limite, e lo ricordava l'ascoltatore, lo ricordavate prima, è che non si superino delle soglie individuali, cioè 5.000 euro nette quando la prestazione è a favore dei privati e 2.000 quando è a favore degli imprenditori o dei professionisti. Ma poi per il resto non ci sono limiti, financo il pubblico può, esatto, utilizzare questo strumento. Lo si usa nel pubblico, avvocato Ferrante? Ma l'introduzione nel pubblico è molto recente e appunto collegata alla Fornero. Teniamo conto che stiamo parlando quasi di una novità, di una cosa che ha 10 anni, quindi la domanda me la dovrebbe rifare fra un 3-4 anni. Ah, insomma, sì, perché insomma il pubblico è un po' lento in tutto, quindi anche in questo. Ecco. Tra l'altro, anche per dare ancora due indicazioni prima della pausa sulle voucher, il valore di un buono è sempre di 10 euro, giusto? Tra l'altro una cifra che è stata modificata da poco, mi pare che prima il taglio fosse inferiore. E di 10 euro c'è una contribuzione previdenziale INPS del 13%, il 7% va all'INAIL, perché qui ovviamente gli infortuni possono essere abbastanza frequenti, e il 5% lo trattiene il concessionario, il che significa che il lavoratore poi ottiene, quando diciamo porta all'incasso questo voucher, 7,50 euro per ora. Per ora però in realtà significa che le parti, ovviamente qui insomma non dico nulla di scandaloso, ma le parti non hanno un controllo preciso sul rispetto dell'orologio. Quindi ogni voucher, certo, vale 7,50 euro. Quindi teoricamente insomma un'ora di lavoro varrebbe questa cifra. Adesso ci fermiamo, abbiamo la prima pausa pubblicitaria, poi però dobbiamo dare altre indicazioni. Intanto, che cosa deve fare il datore di lavoro che vuole utilizzare il voucher? Perché non è che va lì, li chiede all'INPS e con facilità l'INPS così stacca questo piccolo libricino dove sono appunto fissati i voucher, ma bisogna dare un'indicazione precisa dell'uso che se ne intende fare. Poi ci sono anche dei limiti per spenderli. animali per riscattarli, diciamo così. E quindi vi dobbiamo spiegare anche tutto questo, ma nella seconda parte abbiamo anche altre cose da ricordarvi, perché oggi c'è un click day per i lavoratori stagionali stranieri e dobbiamo quindi spiegarvi anche questa notizia. C'è stato un decreto pubblicato ieri sera da parte del Ministero dell'Interno e quindi attenzione anche a questi 30.000 posti di lavoro stagionale appunto per lavoratori stranieri e quindi tante cose da raccontarvi nella seconda parte del programma. A tra poco. Eccoci ritrovati in diretta, un nuovo martedì del lavoro con Salva Danaio. Vi stiamo parlando dei voucher, come deve fare un'azienda, un piccolo imprenditore che ha bisogno di un lavoratore per un tempo molto limitato, può avvalersi di questa professionalità remunerandola appunto con i voucher. Naturalmente la remunerazione complessiva lorda annuale non deve superare appunto i 4.000 euro. Adesso vi spiegheremo dove si vanno a prendere questi voucher, ritorneremo sulle caratteristiche di erogazione appunto di questi strumenti di pagamento. Prima però c'è una scadenza per tutti i lavoratori parasubordinati in questo momento senza lavoro. Attenzione a cosa succede entro il 31 marzo. C'è una buona notizia per i lavoratori a progetto, una categoria che spesso si trova ad affrontare situazioni particolarmente scomode e precarie. Chi è rimasto senza lavoro nel 2012 e ha continuato a non lavorare anche nei primi due mesi di quest'anno ha la possibilità di ottenere dall'INPS un'indennità, un sostegno che non potrà certo far male, utile a dare un po' di sollievo. Per ottenere questo sostegno, la situazione in cui si trova il lavoratore deve rientrare in alcuni margini specifici. Deve essere un collaboratore a progetto in via esclusiva e quindi pagare all'INPS il contributo più alto, pari al 27,72%, non disponendo di altre assicurazioni obbligatorie. Non può essere un pensionato. L'attività deve essere cessata per fine lavoro e deve dichiarare la disponibilità a lavorare e a seguire un percorso di riqualificazione professionale. Tra gli altri requisiti ci sono la monocommittenza del precedente lavoro e alcuni limiti di reddito. Chi rispetta questo profilo potrà ottenere una somma pari al 30% del suo reddito del 2011, con un tetto massimo fissato a 4.000 euro. Attenzione però! Non resta molto tempo per fare richiesta all'INPS. Il termine è fissato per il 31 marzo, anche se qualche giorno di ritardo potrebbe essere tollerato. Ah, avere i capelli rossi, dimenticavo. Eh sì, visto che oggi... Sentite. E poi? Già, Mario Nutarelli, il nostro speaker, naturalmente indicando tutti i requisiti necessari per poter ottenere questa indennità, dice insomma mi sembrano un po' stringenti i parametri previsti dalla legge, quindi abbiamo voluto farvi sentire anche questo simpatico fuori onda, visto che peraltro oggi stanno andando di moda anche per tanti altri argomenti, se andate a vedere i siti internet e oggi dei principali quotidiani. Detto questo, ritorniamo a noi, ai buoni lavoro cartacei, ai voucher che possono remunerare i lavoratori impiegati per prestazioni occasionali di tipo accessorio. 800240024, il numero verde per i vostri casi e le vostre domande che stamattina commentiamo con l'avvocato Vincenzo Ferrante, partner dello studio legale D'Averio e Florio, e con il nostro consulente del lavoro Alessandro Rotaporta. Una domanda di Giovanni da Chieti, poi ritorniamo anche sulle modalità per farne richiesta e soprattutto per utilizzarli anche. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, gestisco una copisteria vicino all'università. Sì. E in alcuni periodi dell'anno, in particolare durante quando ci sono gli appelli, ho già due collaboratori regolarmente assunti, però in questi periodi per 15-20 giorni diciamo che il lavoro aumenta, quindi avrei bisogno di un altro collaboratore. L'anno scorso ho fatto 3 piccole assunzioni a termine. Però magari fai l'assunzione per un mese e mezzo e poi magari ne hai bisogno solo per 20 giorni e quindi sei costretto, tra virgolette, a tenere questa ragazza fino al termine del contratto. Oppure magari ne hai bisogno per altri 10 giorni. Volevo sapere se nel mio caso potevo usufruire dei voucher e chiamare questa ragazza. Certo. 15-20 giorni, coprirli con i voucher. Ecco, esatto. Però per capire, Giovanni, ogni quanto le capitano questi picchi di lavoro? Perché sa, se sono due volte l'anno, ma se è una volta al mese qua magari... No, sono 3 volte l'anno, in particolare marzo, maggio e ottobre. Gli appelli universitari. Giovanni, grazie molto. Alessandro Rotaporta, così a me, a naso, mi potrebbe sembrare una situazione che tipicamente può essere gestita con i buoni lavoro, o no, mi sbaglio? No, no, è corretto. In questo caso la gestione con i voucher può andare bene, nel senso legittima. Come diceva prima l'avvocato Ferrante, l'impostazione attuale deve tenere conto di quel limite che di per sé è l'indice dell'occasionalità della prestazione. Io non dimenticherei anche quello che proprio dice la norma, perché la norma parla comunque di, non parla di datore di lavoro, ma parla di committente, quindi cioè usciamo da una prestazione che è tipicamente subordinata, però nel caso specifico cioè sicuramente può essere retribuita con i voucher. Certo. Avvocato Ferrante, dove li vado a prendere questi voucher? Non li posso certo comprare al supermercato, ma ci sono chiaramente dei canali precisi. Uno di questi è anche la tabaccheria, se non ricordo male. Certo, certo. L'INPS ha stipulato delle convenzioni, si possono ordinare anche via internet con i normali canali di accesso telematico che ormai sono comuni all'INPS, all'Agenzia delle Entrate e tante altre istituzioni pubbliche, le poste, c'è una grande diffusione, credo che insomma chiunque possa con facilità. Ecco, con facilità relativa, nel senso che il datore di lavoro, il committente, come giustamente lo chiama Alessandro Rotaporta, deve però rispettare tutta una serie di adempimenti, il più importante dei quali è la denuncia preventiva di utilizzo del voucher, giusto? Certo, certo, per dare garanzia, per rendere, come dire, tracciabile, per utilizzare un termine che va di moda oggi, questo utilizzo. Certo. E poi ovviamente deve comprare dei pacchetti, quindi qui è un po' come tutti i buoni, che ne so, per l'etichetta restaurant c'è il problema di... Del limite di utilizzo temporale. Sì. In genere sono stati prorogati, c'è un regime speciale per quelli che sono stati acquistati, però insomma... se uno fa bene i conti non dovrebbe avere troppe difficoltà. Ecco, per esempio per il caso dell'ascoltatore che ne ha bisogno in questa copisteria vicina all'università, lui dice per esempio a Mars in concomitanza con gli appelli il lavoro esplode, quindi ammettendo di poter impiegare due professionalità, sono un committente che ha bisogno di queste due persone, quanto tempo prima li deve comprare? Ma guardi, qui varia, ma se lui sa già i periodi, faccia conto che 2.000 euro, no? Che è il limite netto per gli imprenditori, equivarrebbe grosso modo a 3 mensilità da 700 euro, che insomma per un part time verticale o anche orizzontale mi pare una somma adeguata. Quindi ci sono anche addirittura delle offerte che vengono fatte, è incredibile a dirsi, ma insomma l'INPS si orienta al mercato anche in queste modalità, per cui non dico che fa il 3x2, ma c'è un piccolo sconto nel caso in cui se ne acquistano di più. Ah, ho capito, questo non lo sapevo, che addirittura ci sono queste promozioni, il 3x2 anche dei... Sul lavoratore accessorio. Certo, e invece il lavoratore appunto che viene retribuito secondo questa modalità, entro quanto tempo deve spendere questi ticket, diciamo così? Anche lì è un poco come l'assegno, non posso tenermelo in tasca a tempo indeterminato e poi portarlo in banca mesi dopo. Del resto il lavoratore ha un interesse, insomma, alla trasformazione del voucher in moneta e quindi ha la possibilità di rivolgersi all'INPS, certo dovrà affrontare i tempi di sportello per questo, ma quindi bisogna andare all'INPS per monetizzare questo voucher? E questo è il canale principale, ecco. Il sistema più sicuro che consente di trasformarlo in denaro. Benissimo, Rotaporta, altri suggerimenti sul corretto utilizzo del voucher? Ci siamo dimenticati qualcosa con l'avvocato Ferrante o non gli ho chiesto io, magari, quindi ho... Ma allora, sul discorso della validità, ci sono 24 mesi, se non ricordo male, per quelli emessi dall'INPS e dalle poste, per quelli quindi che acquistati INPS e poste, e 12 mesi per quelli nelle tabaccherie, quindi diciamo che c'è un certo lasso di tempo utile per poterli incassare molto ampio. E per quanto riguarda invece le sedi dove incassarli, ad esempio ci sono anche le poste, ci sono le tabaccherie, dipende da dove il committente ha acquistato il voucher, ecco, quindi deve esserci corrispondenza se il committente ha acquistato, ad esempio, col canale IMSS. Allora, se sono stati acquistati con il canale IMSS, il voucher cartaceo e anche quello telematico devono essere riscossi alle poste. Se sono stati acquistati presso la rete delle tabaccherie, allora vanno riscossi presso le tabaccherie, quindi bisogna un po' seguire lo stesso canale dove è avvenuto l'acquisto. E insomma bisogna essere un po' attenti a tutto questo e basta, tutto qua. Allora ci fermiamo, no, non ci fermiamo, ho il tempo per far sentire un altro ascoltatore che è Antonio dalla provincia di Campobasso, vorrei sentire lui, poi andiamo a Paolo d'Arezzo che aspetta da un po', ma è una domanda di tipo diverso, quindi gli chiedo ancora un minutino di pazienza. Antonio, siamo da lei, buongiorno. Sì. Buongiorno, velocemente. La mia domanda è simile a quella della copisteria di prima, con la variante. Se io in effetti mi accorgo che il periodo si prolunga e quindi magari per un singolo dove avrei bisogno di un dipendente in più in due periodi dell'anno come prima, però magari questo periodo può durare un mese e mezzo e potrei superare diciamo la quota di, mi pare, 2.000 euro, avete detto? 4.000 complessivi annui. 4.000 complessivi annui, mm-hmm. Forse con 4.000 ce la posso fare. Se dovessi comunque superarli, che succede? Eccoci ritrovati in diretta, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Dobbiamo anche spiegare, poi lo faremo fra un istante, il decreto flussi. Alle 8 di stamattina è partito il click day per 30.000 posti di lavoro stagionale. Fra un attimo adesso rispondiamo alla domanda che ci ha fatto l'ascoltatore di poco fa, che non mi ricordo da che città chiamava, e però avvocato Ferrante, era una domanda simile a quella che ci aveva fatto invece il nostro amico abruzzese. Esattamente, allora due periodi l'anno lo stesso, lui in realtà un po' ha fatto il conto su questi 4.000 euro che potrebbe teoricamente raggiungere, forse anche superare, questo rappresenta un po' il limite all'impiego appunto di un lavoratore e retribuirlo appunto col voucher. Ma guardi, prendiamolo anche da un punto di vista dei lavoratori questo voucher, non solo dal punto di vista delle imprese. Per le imprese c'è una grande flessibilità, nel senso che quando noi ricorriamo al part time abbiamo un obbligo preciso di indicare con esattezza il calendario della prestazione. Quindi devo saper dire che ogni martedì dalle 9.30 alle 12.30 c'è prestazione lavorativa, e questo ovviamente quando la prestazione e l'esigenza è molto flessibile, è difficile da indicare. E invece qui nel lavoro col accessorio, col voucher, non abbiamo nessuno di questi limiti, abbiamo solo il limite complessivo, ma poi sono libero di dire oggi fai 7 ore, domani ne fai 4, poi un intervallo, eccetera, eccetera. Quindi dal punto di vista delle imprese c'è questa grandissima flessibilità che forse nessun altro strumento in questo momento dà, financo forse più del lavoro a progetto. Dal punto di vista del lavoratore è pure uno strumento importante, ma è uno strumento importante per evitare che il lavoratore perda completamente il contatto con il mercato del lavoro. Esatto, anche per dare continuità, certo. Sì, è un po' il lavoratore che dice guarda, io ancora non ho esaurito la soglia dei 5.000 euro annui, prendimi anche per poco, prendimi quando vuoi. Io fino a 5.000 sono assistito, ho una contribuzione ridotta di favore al 13%. Benissimo, allora sentiamo adesso Paolo d'Arezzo, altrimenti poverino non gli faccio fare più la domanda. Non è esattamente il tema voucher, però siccome all'inizio abbiamo detto che avremmo, compatibilmente con le esigenze voucher, parlato anche del contratto di lavoro a chiamata, sentiamo il quesito appunto del nostro ascoltatore di Arezzo. Buongiorno. Buongiorno, Paolo d'Arezzo. Sì. Volevo un'informazione. Io, pensionato, sto lavorando a un'impresa funebre. Vorrei sapere, sia da parte dell'impresa che da parte mia, se è preferibile il contratto a chiamata o i voucher. Ah, grazie Paolo. Alessandro, rotta porta. Se non ho capito male, l'ascoltatore è pensionato, giusto? Sì. Ma allora... possono andare bene entrambe le soluzioni, perché essendo pensionato e quindi sicuramente superando i 55 anni di età, il contratto di lavoro a chiamata può essere applicabile, ed è applicabile anche il discorso della retribuzione tramite i voucher. Da che cosa può essere, quali sono i parametri che dovrebbe prendere in considerazione per fare una valutazione anche di convenienza economica, immagino? Allora, se la prestazione rientra nel tetto dei 2.000 euro, perché qui parliamo di un'impresa, se non ho capito male, quindi di un'attività economica, se non non supera i 2000 euro netti nell'anno solare, allora sicuramente anche per l'ascoltatore è conveniente essere retribuito con i voucher, perché il voucher non va a fare anche cumulo fiscale, quindi lui che è già percettore di pensione non avrebbe un aggravio a livello di imposte, perché il voucher tanto diciamo in cassa e non deve andare a inserirlo in denuncia dei redditi o quant'altro, quindi dal punto di vista economico se rimane nell'ambito di questi limiti che abbiamo detto, la retribuzione tramite i voucher è più conveniente per il lavoratore. Che era quello che voleva sapere appunto Paolo. Allora, Rottaporta, visto che l'abbiamo introdotto questo tema, non vorrei finire la trasmissione e non affrontare appunto anche questa novità che è di oggi: è ripartita la corsa per i lavoratori extracomunitari stagionali, per cui per chi già ci chiede se per questi lavori stagionali possono essere assunte anche persone non straniere, no, l'operazione di cui parliamo questa mattina è dedicata solo a questa, perché è contemplata nell'ambito del più ampio progetto decreto flussi. Da oggi è possibile inviare la domanda telematica attraverso il sito internet del Ministero dell'Ingresso per appunto chiedere la disponibilità di uno di questi 30.000 posti di lavoro stagionale per stranieri provenienti da tutta una rosa di paesi. Tra l'altro vedo, Rottaporta, che 5.000 posti sono riservati a lavoratori che hanno già lavorato stagionalmente in Italia. Questi per esempio saranno pagati con i voucher? No, qui parliamo di lavoratori con contratto di lavoro subordinato, quindi stiamo parlando di attività agricole stagionali, quindi contratti che sono appunto correlati alla durata del permesso di soggiorno stagionale, che non può essere superiore ai 9 mesi, e che sono contratti di lavoro subordinato sotto la formula del cosiddetto bracciante agricolo, quindi il lavoratore agricolo a tempo determinato che è attribuito a busta paga come un normale lavoratore dipendente. Allora, i paesi sono molti, non li sto a dire tutti, magari ve ne indico qualcuno: Albania, Algeria, Croazia, India, Ghana, Moldavia, Montenegro, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia. I 30.000 posti di lavoro saranno ripartiti dal Ministero del Lavoro sulla base delle domande che arriveranno agli sportelli unici per l'immigrazione. Il click day parte oggi, è partito oggi alle 8, però avete tutto il tempo per fare domanda, perché questa si conclude il 31 dicembre di quest'anno. Come funzionerà poi appunto questa ripartizione? Ci spiega meglio Rottaporta. Qui si dice saranno ripartiti dal Ministero del Lavoro, ma sulla base dell'ordine d'arrivo delle domande? No, la ripartizione delle quote viene fatta dal Ministero a livello provinciale, quindi a ciascuna provincia, sulla base dei dati di rilevazione, sono assegnate un tot di quote, e poi ovviamente si va a concorrenza dei posti disponibili, quindi nel momento in cui dovessero essere esauriti, ovviamente le domande non riceveranno poi l'autorizzazione, però sono numeri che almeno lo scorso anno sono stati più che sufficienti, quindi parliamo anche di una situazione di crisi diffusa, quindi probabilmente saranno numeri che basteranno per le esigenze delle aziende. Torniamo ai voucher, ancora con qualche caso di qualche ascoltatore, qualche domanda specifica. Chiedo una risposta all'avvocato Vincenzo Ferrante. Tina ci chiede: ho trovato una persona professionalmente adeguata, disposta a seguire mio figlio disabile nei compiti. Ha una partita IVA, ma non ci sarebbe un'altra possibilità? Avvocato Ferrante, già l'idea se questa persona seguirà costantemente questo ragazzo, dubito che potrà usare appunto la modalità del voucher, a meno che non lo usi un mese qua e là, ma non credo che sia il caso giusto. Ma guardi, in non origine è detto. La legge Biagi prevedeva proprio l'assistenza agli studenti, alle persone, come ipotesi tipica per il voucher. Sì, chiaro baby sitter, che forse per un disabile l'assistenza è più prolungata, nel senso che va avanti per i 12 mesi probabilmente, ed è anche lunga per una buona parte del pomeriggio. Qui l'unico limite però, ripeto, è quello della retribuzione, che per i privati però sono 5.000 euro. Ah, ecco. Quindi sì, è più alta rispetto a quella delle imprese, abbiamo dato... quindi non escluderei, è sicuramente possibile il cumulo, cioè il voucher non impedisce a chi ha partita IVA di prestare attività con voucher, nei limiti però dei 5.000 euro. Tina ci chiede ancora, visto che hai iniziato ad ascoltarci da poco, se i voucher si possono utilizzare per le collaboratrici domestiche. Tina, se si avvale di una collaborazione domestica due volte l'anno per due grandi operazioni di pulizia della casa, sì. Se il rapporto di lavoro è più costante e continuativo, no. C'è un rapporto di lavoro, c'è un contratto nazionale di lavoro che regola appunto il rapporto di lavoro fra datori di lavoro e lavoratori in questo ambito, ed è tutta la puntata che abbiamo dedicato a questo argomento appunto settimana scorsa. Alessandro da Ferrara, buongiorno. Rapido, grazie. Sì, buongiorno. Senta, io sono un lavoratore esodato, salvaguardato, che percepisce l'assegno di mobilità. Sì. Mi è stato offerto un breve periodo con un contratto a voucher. Volevo chiedere se posso accettarlo, senza perdere il diritto naturalmente alla salvaguardia. Quando dovrebbe andare in pensione intanto, Alessandro? Ma io dovrei andare entro marzo del 2014, prossimo anno, fra un anno, sì. Col periodo lì circa. Non mi è ancora arrivato niente di definitivo, ecco. Allora volevo chiedere se posso accettare e in quale misura posso accettare. Grazie Alessandro. Avvocato Ferrante, anche questo è un bel caso. E questo è davvero un bel caso. Io qui, devo dire la verità, sarei un po' attento, nel senso che quando si parla di esodati si fa riferimento ad una pluralità di ipotesi, nel senso che ci sono i cosiddetti salvaguardati di quel decreto Fornero del giugno, eccetera, eccetera. E in genere ci sono quelli che hanno accesso ai fondi per esempio quelli creati bilateralmente, e per questi lavoratori c'è una clausola molto precisa che prevede il divieto di qualsiasi attività retribuita di tipo subordinato o autonomo. Perché altrimenti la salvaguardia si interrompe? Eh sì, perché qui sostanzialmente la retribuzione viene corrisposta a fronte di un rapporto di lavoro che va, seppur fittiziamente, avanti, e quindi i datori di lavoro hanno il diritto di chiedere che non ci sia alcuna prestazione. Devo chiudere, avvocato Ferrante, perché il tempo sta scadendo, quindi cosa conviene fare ad Alessandro? Pensarci un attimo con attenzione. Conviene essere molto attenti e verificare con precisione anche presso l'INPS se è possibile fare ricorso a questa modalità. Benissimo, grazie molte ad Alessandro Rotaporta, l'avvocato Vincenzo Ferrante, per essere stati con noi, e Marco Lombardo per la intensissima collaborazione in redazione come sempre, Gianmarco Ferronato in assistenza tecnica, oggi bravissimo, ho salutato tutti. Noi ritorniamo domani, cominciamo i mercoledì del risparmio, stiamo andando verso il Salone del Risparmio che si svolgerà a Milano a metà aprile, domani cominciamo a parlare anche dello stato di salute dei fondi di investimento. Buona giornata a tutti, a domani. We'll be right back.